English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli per il nostro appuntamento settimanale con la lingua inglese. Proseguiamo il viaggio che abbiamo iniziato settimana scorsa nel mondo misterioso e affascinante dell'arte contemporanea. Settimana scorsa abbiamo incontrato alcuni artisti molto quotati. Questa settimana ci dedichiamo a un artista che forse in questo periodo è il più famoso di tutti, sicuramente tra i più pagati. Si chiama Damien Hirst e cominciamo a parlarne ascoltando insieme un pezzo tratto dal Financial Times, che noi ascoltiamo nel CD allegato alla nostra rivista English 24 che trovate in edicola. Cosa pensa di Damien Hirst Clive Crook, appunto, del Financial Times? I am a huge admirer of Damien Hirst, not of the art, which is rubbish, but of the sheer productivity and exuberance he brings to his life's work of fleecing rich idiots. Oh, Damien, you're a genius. Screw me over again. Why not, he says, munching a bacon buddy. Nothing cheered me up this week so much as reading about how well his auction of more than 200 works, each of them painstakingly produced in factories, occasionally visited by the artist, had gone. Nearly $200 million for this stuff? It's wonderful! I don't begrudge him a cent. Beh, Giulia, ironia come se piovesse nei confronti di Damien Hirst, perché questo critico del Financial Times dice: io sono un grande ammiratore. Sì, quando parliamo di humor inglese forse è proprio questo, no? Questa ironia sicuramente feroce, però detta con una certa leggerezza, e quindi perché già l'attacco dice: ma huge admirer of Damien Hirst. Huge vuol dire enorme, può essere detto appunto sia di una cosa figurata ma anche di una montagna, huge mountain. Quindi lui dice: sono un ammiratore incredibile, sconfinato di Damien Hirst, not of the art. Peccato che siccome Damien Hirst è un artista e non lo ammira per l'arte, perché sottolinea which is rubbish, che è spazzatura. Allora, perché ammira Damien Hirst? E tutto sommato lo ammiriamo anche noi per questo. Caspita, per la sua sheer productivity. Sheer è pura, mera, ecco, potremmo dire, per la sua mera produttività. Cioè è uno che produce molto, poi non produce arte secondo il critico del Financial Times, ma rubbish. E poi però questa rubbish la vende a peso d'oro. Eh sì, perché poi parla un po' esattamente di quello che succede alle sue opere d'arte. Sì, dice, fa questa espressione molto figurata, no? Che come se ci fossero questi stuoli di ricchi un po' annoiati che un giorno prendono psicofarmaci e il giorno dopo acquistano un quadro di Damien Hirst, che gli dicono scroll me over again, cioè scuotimi, come si scuote l'albero degli zecchini d'oro, scuotimi di nuovo, ti prego, portami via un po' di denaro per la tua rubbish, appunto. Lo fanno col sorriso sulle labbra, e questo per Clive Crook è una cosa assolutamente ammirevole. Poi tra l'altro munching a bacon buddy, questa è molto molto carina anche questa espressione. Sì, che il punto dice: ma sì, ma perché no? E risponde Damien Hirst, ovviamente scranocchiando il suo snack al bacon, perché Damien Hirst è anche famoso per non essere un tipo apparentemente particolarmente raffinato neppure nei gusti gastronomici. Lo sentiremo tra poco parlare effettivamente quello che è anche la sua figura un po' gli porta del fascino e un sacco di soldi, lo dice proprio il nostro Clive Crook. E qui ironizza anche sul fatto che Damien Hirst, che recentemente tra l'altro ha persino dipinto dei jeans 501 Levi's facendoli pagare anche quelli a peso d'oro naturalmente, ma anche lì in modo industriale, è questo, no? Che in realtà si pensa all'arte come un pezzo unico, invece il critico dice they are painstakingly produced in factories, cioè queste opere d'arte sono painstaking, cioè con un dolore pazzesco. Painstaking è qualcosa che ti produce dolore, quindi con grande fatica, ovviamente ironico, quindi se la fa una macchina la fatica dell'artista è pressoché nulla. Ma lui va a vederle queste... Occasionally visited by the artist, cioè occasionalmente, quando proprio non ha niente da fare, va a vedere queste catene di montaggio delle sue opere che poi vengono vendute come appunto assoluti pezzi unici di un genio dell'arte contemporanea. Beh, visto che abbiamo anticipato il fatto che lui sembra un po' pazzerello, ascoltiamo davvero la voce di Damien Hirst che racconta un po' quello che pensa del fatto, insomma, di avere così tanto successo e di guadagnare così tanti soldi. No, I think for me it's just great that a lot of people come and people enjoy it and hopefully people leave with more than they came in with and you know, they like it. Everybody sort of thinks that artists should be poor, which you know, seems a bit crazy to me. You know, it's like, you know, if you're an alcoholic sat in the corner complaining, painting away in scruffy clothes, you know, that means you're a real artist, but you know, if you make money, it's like somehow seems bad. Allora, lui ironizza anche in questo caso, dice noi ci immaginiamo che l'artista debba essere necessariamente povero, ma quando mai, insomma. Lui invece si diverte, si gode la vita. Infatti il primo pezzo era tratto da un'intervista fatta a un party, il secondo invece era un'intervista un po' più seria. Cosa racconta Damien? Ma sì, è divertente perché inizia un po' con uno statement molto da artista, da critico, cioè it's important that people, quando vanno a una sua mostra, people leave with more than they came in, cioè che se ne vanno con qualcosa di più di quello che avevano quando sono venuti, che sarebbe lo scopo dell'arte, no? Comunque darci qualcosa. Si esce da una mostra e ci si sente, magari senza neanche sapere il perché, arricchiti. Quindi questa è la teoria. E poi però dice to me it seems a bit crazy, mi sembra un po' pazzo questo altro statement, che gli artists have to be poor, che gli artisti devono essere poveri. Sì, perché lui dice effettivamente noi abbiamo un'immagine dell'artista che non corrisponde alla verità, però li vogliamo così gli artisti. Sì, cioè che se sei un alcoholic, there in the corner, cioè un alcolista, no? Alcoholic come shopaholic è colui che è malato di shopping, l'alcoholic è l'alcolista, e il workaholic è quello che lavora troppo. Se sei lì nell'angolo, scruffing your head and your clothes, cioè che ti gratti la testa e i tuoi vestiti perché sei lì magari anche un po' sporco, allora sei un artista. Se invece fai la bella vita, hai un sacco di soldi, no. If you make money, then somehow it seems bad. In qualche modo, somehow, esattamente come lo diciamo noi, it seems bad. Sembra una cosa brutta, sembra una cosa che non si dovrebbe fare. Beh, forse non ha tutti i torti, lui di mani ne fa molti. Parla poco Damien Hirst, non ci sono tantissime sue interviste. Noi abbiamo scovato questa che ha concesso a un famoso anchorman che si chiama Charlie Rose e ha raccontato in particolare un'esperienza che ha avuto con Bono, un'esperienza che fa capire che lui è anche appassionato, fortunatamente, alla beneficenza. Bono, I went on holiday with Bono in the south of France to stay with him, and at the end of the holiday, about 5 o'clock in the morning, drunk, he said, hey, do you want to do an auction for Red? And I said, yeah, definitely, I'll do it all. Yeah. I mean, I've got my own charities in Britain that I work with, and I've had some bad problems with charities in the past where the money wasn't going to the right places, and we've had to change charities, but I've always given a few pieces every year to a charity where you try and make a difference. And I've always liked what Bono's doing. I mean, I think, you know, they kind of, you know, it's kind of grown up, and it's, you know, with the, you know, I like the Global Fund, the way it kind of controls the money and doesn't take it for it, line its own pockets, and, you know, it seems like you can make a difference. So I just thought, you know, let's get really behind this and see if we can do something. Allora, finora l'abbiamo dipinto un po' come un matto che produce, anzi fa produrre in serie le sue opere, però un lato umano e anche generoso, il povero Damien Hirst, che abbiamo un po' preso in giro finora, ce l'ha, fortunatamente. Sì, poi molto ironico, anche autoironico. Autoironico, no? Inizia raccontando la sua esperienza con Bono, perché è stato coinvolto appunto dal cantante irlandese in un progetto di beneficenza, in un'asta di beneficenza. Ma com'è andata? Questo è divertente perché dice, yeah, Bono, well, I went on holiday with Bono in the south of France, quindi eravamo in vacanza insieme, e poi l'ultimo giorno we were drunk, it was 5 o'clock in the morning, eravamo ubriachi, erano le 5 del mattino, chissà cosa avevano fatto fino alle 5 del mattino. Do you want to do an auction for Red? Quindi vuoi fare un'asta per Red? Red sappiamo che è il progetto di Bono e sua moglie, che ha coinvolto tantissimi marchi in Italia, per esempio anche Armani, in America Gap. Si fanno questi prodotti che hanno il marchio Red, e chi compra, e ovviamente anche chi lo fa, sa che parte dei proventi vanno a questo progetto che è per la lotta all'AIDS nel mondo. Quindi gli propone di mettere all'asta dei quadri, e lui gli dice subito yeah sure, non si sa se è preda dei fumi dell'alcol o autenticamente motivato. Chissà com'è andata questa vacanza nel sud della Francia, però lui racconta anche che comunque è impegnato in beneficenza anche in Gran Bretagna. Sì, dice I've got my own charities in Britain. My own charities ovviamente vuol dire che non è che lui possiede delle enti di beneficenza, ma ne ha scelte, cioè ha già scelto le sue, le own charities. Ammette che I've had some problems with charities in the past, ovviamente a volte si hanno delle brutte sorprese, si pensa di dare soldi in beneficenza, si scopre che sono andati altrove. The money wasn't going to the right places, il denaro non andava nei posti giusti, ma appunto chissà dove, nelle tasche di chissà chi, non per esempio non appunto per un fondo di ricerca sull'AIDS. E come può fare beneficenza Damien Hirst? A lui basta dare qualche piccola opera d'arte delle tante che fa, effettivamente alle case di beneficenza tutto questo può bastare. Certo, esattamente come appunto Bono gli vuole organizzare questa auction. Allora lui dice: io ho sempre dato a few pieces every year, per cui appunto, se vogliamo, è per carità ammirevole, però non è poi così faticoso, no? Sceglie magari i quadri che non lo soddisfano neanche completamente, li dà per un'asta e sicuramente qualcuno li compra. He's kind of grown up, kind of controls the money. Ah, sì, questo kind è uno di questi intercalari che ogni tanto... Non c'è puntata in cui non troviamo un kind. Kind, you know, insomma, piace anche a Damien Hirst, piace, quindi... In realtà, come tutti gli intercalari, è tra virgolette inutile, cioè potrebbe essere levato, quindi he's kind of grown up, la sostanza è che he's grown up, cioè questa charity di Bono, Red e forse Bono stesso sono cresciuti, cioè sono diventati adulti, quindi è una charity molto seria e forse anche Bono. E poi c'è un'espressione che io amo molto e vorrei chiudere su questa, you can make a difference. You can make a difference, quante volte abbiamo sentito anche nell'ultima campagna elettorale di Obama. Tu puoi fare la differenza, anzi letteralmente una differenza, però una differenza può essere la differenza. Per sapere qualcosa di più di Damien Hirst e anche di tutti gli altri artisti di arte contemporanea di cui abbiamo parlato settimana scorsa, vi rimando alla lettura e all'ascolto del nostro English 24 in edicola, perché il tempo a disposizione per il nostro appuntamento radiofonico si conclude qua. Io ringrazio Giorgio Mate in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.